il mio corpo come un moto di gioiosa tristezza, come un'acqua serena per andare. Tu mi hai creduto una rupe divina, ma non atta ad ancorare la radice. Ti ho offerto i miei tralci, la mia voce, la mia vita feconda. Ho domandato che tu mi capissi, ma neppure hai cercato di baciarmi e mi credi una Venere delusa. Una Venere delusa. Una Venere delusa. Una Venere delusa? Lo so che non mi crederete. Mi sono abituata a raccontare storie a cui nessuno ormai presta fede. Ma stanotte in televisione ho visto uomini tormentati e picchiati a sangue. E soltanto uno, tra tutta la gente, uno solo li ha difesi. Ma era tanta la povertà degli altri che quegli uomini morirono, disperati fino all'ultimo, affogati. Siamo nel 2010. Sei ridicola. C'è la crisi economica. Che cazzo vuoi? Era il tempo della dorata giovinezza, quando gli alberi schiusi gemevano tristezza. Era il tempo degli innamorati dolori e dei sordi frastuoni della terra. Che cazzo vuoi? Il 22 agosto 2009 sono morte 73 persone. Milano benedetta, patria di sicurissime storie e di frangenti mobili oscuri. Milano dove è nata la mia poesia e dove la mia poesia è morta lungo il naviglio che geme. Dove la patria Italia ha un riferimento sicuro. Dove vivono Marina e Chiara. Dove sono nati i miei figli e dove i miei figli mi abbandonano giorno per giorno. Dove l'emarginato e il povero trovano il suo caldo affetto. Ma che cazzo dici? Dove tutto brilla all'insegna della cultura e dove le sere sono dolenti come il mare di Taranto, dove ha lasciato un lungo sconfinato amore morto di lebbra e di ardente desiderio di vederti. Vaffanculo, cosa stai dicendo? 73 affogati. Ce ne fottiamo. Ce l'avevano detto di non farlo. Ce ne fottiamo. Ce l'avevano detto di non farlo. Ce ne fottiamo. Ce l'avevano detto. Amici, parenti, colleghi, professori, politici, ex comunisti, ex fascisti, ex democristiani, ex socialisti e cattolici. Ce l'avevano detto di non farlo uno spettacolo su una brigatista. Gliel'avevo detto, lo avevo scongiurato. Gliel'avevo detto di non dire niente, di non provocare. Me l'avevano detto, me l'avevano scongiurato. Me l'avevano detto di non dire niente, di non provocare. Ma che senso ha parlare di questa storia? Ma che senso ha parlare di questa storia? Caso archiviato. Anche quest'anno qualcuno ha portato dei fiori per Maracadò. Erano rossi, erano rose rosse. E le ha lasciate lì solo per ricordare che non bisogna più che il sangue scorra in vano. Anche quest'anno qualcuno ha portato dei fiori per te. Erano rossi, di rosso desiderio. Disturbo post-traumatico da stress, ovvero quel complesso di reazioni patologiche che si sviluppano a causa della rimozione prolungata di un evento doloroso. Si tende a cancellare persino il ricordo dell'evento per paura di rivivere quelle stesse situazioni. Ci si illude di aver eliminato il problema, in realtà emozioni e stati d'animo continuano a ribollire. Ma che senso ha riparlare di anni di piombo e della storia da cui sono scaturiti? In realtà l'Italia non è mai uscita del tutto dalla stagione degli anni di piombo a causa del disturbo post-traumatico da stress. La verità è che quasi nessuno vuole fare davvero i conti con la tragedia di quegli anni e con il loro carico di lutti e di sofferenze. E in particolare con i suoi profondi sensi di colpa. Vogliono farci credere che le BR venivano dallo spazio e invece sono figlie di una parte della sinistra storica. Quella sinistra storica della quale anche noi tre che abbiamo lavorato a questo spettacolo siamo orgogliosamente figli. Così il nostro paese non ha potuto farsene una ragione. Non ha capito. Il fenomeno continua a rimanere senza una spiegazione. La sua comprensione sarebbe la giusta terapia al disturbo post-traumatico da stress. La cura capace di depotenziarlo degli aspetti distruttivi, lasciando spazio solo al dolore. Sarebbe giunto il momento di strapparlo alla cronaca per riconsegnarlo alla memoria e alla storia. Questo spettacolo è la storia ed è dedicato a una ragazza militante delle Brigate Rosse. Cerca di narrarla appena con qualche intelligenza e pietà. Pietà non solo per coloro che morirono e ne morirono, ma per la vicenda delle rivoluzioni del secolo, dentro la quale come un asteroide si è accesa e spenta. La memoria per questa storia, come tutta la storia delle Brigate Rosse, non è morta. Non è neanche conservata. È esorcizzata, allontanata, deformata. Tutti sanno tutto e tutti continuano a elucubrare. Non vedere quel che è semplice, tragico e semplice. Siamo coscienti che il nostro è uno spettacolo politicamente scorretto, che è una piccola operazione a rischio, come tutte le operazioni che trattano temi a lungo rimossi. Temiamo che le BR ci siano ancora. Quel terreno non è mai stato bonificato, non si spiega il perché. Il nostro spettacolo racconta delle origini delle Brigate Rosse fino al 5 giugno 1975, data di morte del carabiniere Giovanni D'Alfonso e della brigatista Mara Cagol. Uno spettacolo. Uno spettacolo. Che vuole essere. Che vuole essere. Forse in maniera un po' presuntuosa. Forse in maniera un po' presuntuosa. Un piccolo tentativo. Un piccolo tentativo. Per narrare un po' di questa storia. Per narrare un po' di questa storia. Andarsene di casa senza destinazione. Oltrepassare l'uscio senza un saluto. Darsi il coraggio assurdo di non tornare quella sera né un'altra a dormire. Senza sapere dove, senza sapere invece. In tasca forse 5.000 lire, una sacca con ricambio scarso. Darsi allo sbaraglio da apprendista che non ha mai visto come fare. Cercavamo il comunismo. Comunismo era per noi forza d'uguaglianza e smentita di ogni privilegio. Era il nome del tempo e del campo a noi assegnato, non era volontà di potenza. Nel gennaio 1969, un pomeriggio, un ragazzo raggiunse la base della statua di San Venceslao, che è il centro di Praga. Si tolse il cappotto, alzò un canestro che conteneva del liquido, si cosparse la testa e le spalle e il corpo intero, estrasse dalla tasca un accendino lo azionò, si trasformò in una fiaccola. Nella tasca del cappotto di Jan Palak troveranno una lettera. Io sono il primo a cui tocca l'onore di eseguire la nostra decisione. Sono il primo che ha avuto il diritto di scrivere la lettera e sono anche la prima fiaccola. La richiesta principale è l'abolizione della censura. Se questa richiesta non sarà rispettata entro 5 giorni, vale a dire entro il 21 gennaio, e se la gente non dimostrerà l'appoggio alla nostra azione, altre torce umane seguiranno. Nella Praga di Jan Palak, invasa dai cannoni russi, noi eravamo praghesi. Comunismo era per noi la negazione dell'autorità. L'autorità è una torta nuziale. Da guastafeste, senza invito a nozze, cominciammo a tirare in faccia agli autorevoli le fette della loro torta e gli sberleffi. All'inaugurazione della stagione lirica alla Scala di Milano, nella notte di San Silvestro alla Bussola di Viareggio. Cara mami, è fatta. Siamo sposati, ci è cascato. Ora eccoci qui a Milano. Stiamo molto bene insieme, ma purtroppo in questo periodo siamo molto indaffarati e ci rimane appena il tempo per qualche breve passeggiata. Lì la nostra parola d'ordine era portare gaiezza nella rivoluzione. Tutto ciò che facevamo era in sintonia con questo principio. Nel collettivo si cantava, si faceva teatro, si tenevano mostre di grafica. Era obbligatorio avere una continua esplosione di gioiosità e invenzione. Tutto questo non vale più qui a Milano, perché dopo un primo tempo in cui la città appare luminosa e piena di attrattive, si rivela invece come un mostro feroce che divora tutto ciò che c'è di naturale, di umano e di essenziale nella vita. Questa società violenta ogni minuto tutti noi, togliendoci ogni cosa che possa in qualche modo emanciparci o farci sentire veramente quello che siamo. Questa società ha estremo bisogno di essere trasformata da un profondo processo rivoluzionario. La violenza del sistema è recepita ormai da grandi masse e non è più sopportata. Gli operai sono più che mai arditi e violenti contro il governo, contro i padroni, contro una situazione sociale creata da una politica errata. Basta guardare i fatti che succedono quotidianamente nelle fabbriche, rivolte, ammutinamenti. I giornali certo non ne parlano. Oppure i cortei. Qui a Milano ce ne sono 2 o 3 ogni giorno. Bisogna fare il possibile per combattere questo sistema. È dovere farlo perché questo, io credo, sia il senso profondo della nostra vita. Io e il mio amore stiamo impostando tutto un modo di vita nuovo, teso a raggiungere i nostri obiettivi. Ed è questo l'amore che ci unisce e che ci apre sulla società. Costruire in modo nuovo e solido un rapporto che vada oltre noi due, al servizio degli sfruttati e quindi al servizio del popolo. Cara mamma, questa mia felicità tu hai contribuito molto a costruirla, perché tu hai sempre avuto molta fiducia in noi. Tu non mi hai mai contrastata nelle mie scelte, ma anzi, mi hai sempre aiutata in tutti i modi possibili e a volte anche impossibili. I tuoi atteggiamenti mi hanno sempre indotta a tante riflessioni e considerazioni che mi hanno fatta maturare molto. Tu mi puoi capire, vero? La vita è una cosa troppo importante per spenderla male o buttarla via in inutili chiacchiere o battibecchi. Ogni minuto è importante, soprattutto qui a Milano, dove la città ti ruba ore e ore che potrebbero essere spese in 1000 modi creativi. Bene, mamma, di tutto questo parleremo a lungo e ci scriveremo spesso. Per ora smetto, perché se no magari pensi che sto chiacchierando troppo e che i fatti sono ben altro. Beh, forse avresti anche ragione. Ciao, mamma. Tanti bacioni dalla tua rivoluzionaria, Margherita. spaghetti stanotte bruciato, tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi e il tuo diario che sempre riempivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte l'andava a vedere. Piccola Katie, oh, piccola Katie. Cara mami, fortunatamente è in corso un processo di trasformazione sociale verso una società migliore, dove nessuno sia sfruttato da nessun altro, dove la libertà dell'uno sia il limite e la condizione della libertà dell'altro, dove la ricchezza delle terre e dell'industria sia ugualmente ripartita. È sempre difficile e mai indolore. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo. Non è fatto per te. È sempre difficile e mai indolore. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to... Noi scappiamo via e questo schifo continua a diffondersi. Non c'è nessuno che prova a fermarlo. Laudate Dominum. Laudate Dominum. Non vogliamo pensarti figlio di Dio, ma figlio dell'uomo, anche nostro fratello. Il potere che cercava il nostro umore mentre uccideva nel nome di un Dio, uccideva un uomo. Nel nome di quel Dio si assolse, poi chiamò Dio quell'uomo e nel suo nome altri uomini uccise. Laudate Dominum. Ancora una volta abbracciamo la fede che insegna ad avere il diritto al perdono sul male commesso nel nome di un Dio che il male non volle finché restò uomo. Laudate Dominum. Qualcuno cercò di imitarlo. Se non ci riuscì fu scusato, anche lui perdonato perché non si imita un Dio. Un Dio va temuto e lodato. Laudate Do. Hominem. No, non voglio pensarti figlio di Dio, ma figlio dell'uomo, anche nostro fratello. Laudate Hominem. Quel mattino c'era un silenzio anomalo. Laudate Hominem. Perché nessuno prova a fermarlo, questo schifo che continua a diffondersi? Si diffonde ovunque. Tu mi puoi capire, vero? Quel mattino c'era un silenzio anomalo. L'amore tuo, fanciulla, altro amor io preferia. È un ideale l'amante mia a cui detti braccio e cor. Il mio cuore abborre sfida i potenti della terra. Il mio braccio muove guerra al codardo, all'oppressor. Perché amiamo l'uguaglianza ci chiamarono malfattori, ma noi siamo lavoratori che padroni non vogliamo. Dei ribelli sventoliamo le bandiere insanguinate e innalziamo le barricate per la vera libertà. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo e nel dì che vinceremo, braccia e cor ti donerò. La forza del potere è anche quella di far credere alla maggior parte delle persone ciò che vuole. Ed ha a sua disposizione molti strumenti, radio, televisione, i giornali. Circa un anno fa, quando cominciammo a mettere in pratica le nostre idee, furono proprio questi strumenti a diffondere l'opinione che noi eravamo dei delinquenti, banditi. Del resto non è cosa nuova. Già nel 1943 su tutti gli angoli delle strade si potevano leggere manifesti che dicevano, parlando dei partigiani, Actum, banditi. Ma ormai tutti sappiamo che i partigiani banditi non sono stati, mentre i nazisti e i fascisti, sì. I nazisti e i fascisti erano e sono banditi, figli di puttane ignoranti. Arrivati in piazzale Loreto, il mio amore fa un cenno. Guardate, è lì che le brigate partigiane hanno appeso a testa in giù Mussolini e la Petacci. Ci guardiamo in silenzio. Certo, dico io, brigata è il nome giusto. Brigata Rossa, propongo. Gli altri annuiscono. È fatta. In piazzale Loreto, in quella malandata 850, nasce la Brigata Rossa, al singolare. E il suo simbolo, una stella a cinque punte, la stessa dei Tupamaros. Cara Mami, sono ormai milioni le persone nel mondo che per rendere possibile il processo di trasformazione in atto si prodigano in una lotta continua contro i padroni e la classe borghese, senza avere paura della repressione, della persecuzione o della galera. Quando il nucleo di carabinieri e polizia di Reggio Emilia ha messo sotto sopra la vostra casa per 4 ore frugando in ogni angolo, anche a voi è toccato vedere come si muovono gli uomini che vogliono mantenere a tutti i costi il disordine attuale di questa società, malata di ingiustizia. Siamo stufi di quelli che dicono che sarebbe giusto che le cose andassero diversamente, ma poi se ne stanno tranquilli seduti in poltrona aspettando che altri si muovano. Noi lavoriamo, stiamo bene. Mami, devi avere fiducia nel nostro lavoro e nelle nostre idee, anche se questo ti farà certamente preoccupare. La nostra è una scelta di vita, di lotta, non di rinuncia o di opportunità personale. Ti voglio molto bene, credici. Tua Margherita. Comune da calza, preferibilmente bianco e di lino, perché inodore e meno fumogeno. Stempera 8 grammi di bicromato di potassio in 100 grammi d'acqua. Lasci bollire per 10 minuti il cotone, dopodiché lo lasci asciugare al buio. Poi prendi 40 fili ben asciutti di detto cotone e con un filo del medesimo cotone avvolgi 40 fili, facendo così un cordoncino che brucerà per mezzo centimetro al minuto. Poi prendi un tubo, piccolo o grande, di ferro, di ghisa, di bronzo, persino di alluminio. lo tagli a 10, 20, 40 centimetri. Saldi ad un'estremità un coperchio dello stesso materiale del tubo e al centro del coperchio pratichi un foro del diametro di 6 o 7 centimetri. L'altra parte del tubo viene filettata per permettere di avvitarvi un altro coperchio pure filettato per un paio di centimetri. Si ripone l'esplosivo nel tubo. Si fa passare la miccia con il detonatore nel foro del primo coperchio, facendo in modo che il detonatore vada ad innescarsi nell'esplosivo. Alla fine si avvita il secondo coperchio e la bomba è pronta. Costruisci la tua bomba e poi la sperimenti su uno degli obiettivi che vuoi buttare all'aria. Buon lavoro! È sempre difficile e mai indolore. Tu mi puoi capire, vero? Aspetto un figlio. Io e il mio amore siamo felici, lo desideravamo da tempo. Certo non sarà facile conciliare le cure del bambino e l'impegno politico, ma sappiamo di farcela. Siamo felici. Mara partecipa agli scontri per le case occupate. È l'anima di molte occupazioni. Durante l'occupazione in via McMahon viene arrestata insieme a molti altri e percossa dagli agenti. Cara Mami, il giorno dopo l'occupazione, persino la sinistra istituzionale e ben stipendiata, ci ha accusato di aver strumentalizzato il quarto stato. Il sindaco di Milano però è stato costretto a trovar casa agli sfrattati. Certo non bella come quella che avevamo occupato, ma pur sempre una casa. Cara Mami, purtroppo ho una brutta notizia da darti. Dopo una caduta dal motorino sono stata male e sono stata costretta ad abortire. Il medico però mi ha tranquillizzata dicendomi di non allarmarmi. Dopo l'operazione dovrei poter concepire regolarmente. Avere un figlio da allevare ci entusiasmava, anche se questo avrebbe di certo comportato dei cambiamenti non facili nella nostra vita sino ad ora così movimentata. Sarà per un'altra volta. E speriamo sia presto. Il 18 febbraio 1975, poco dopo le 16, un commando formato da 6 persone, 5 uomini e una donna, Mara, scende da 2 auto. Mara si avvicina al portone del carcere di Casale Monferrato, suona, ha con sé un pacco. Lo mostra al piantone e dice: «Per favore mi apra, devo consegnare questo pacco a mio marito». Il piantone non ci vede nulla di strano, è giorno di visita. Pochi secondi e fa scattare la serratura. Si ritrova con un mitra piantato al petto. Mara dice: «Stai buono o sei un uomo morto». Pochi minuti e sono tutti fuori, diretti ad Alassio. Un'azione perfetta. è stato liberato senza sparare un colpo. Aprite, carabinieri. Sono in tre, mi hanno visto. Dobbiamo andare via, non possiamo farci prendere. E che facciamo col prigioniero? Lo lasciamo qua, lui non c'entra. Scappiamo, lui non c'entra. Non si mette a repentaglio la vita di un rapito per denaro. L'autopsia dirà che Margherita è morta per ferita da arma da fuoco, con i caratteri del foro d'entrata alla regione mediale del cavo ascellare sinistro, con alone ecchimotico circostante, e ferita da arma da fuoco con i caratteri d'uscita sulla linea ascellare posteriore destra, pressoché orizzontale rispetto al foro d'entrata. Tre proiettili. Il terzo è il classico colpo per uccidere, di precisione, a distanza ravvicinatissima. Quel giorno persero la vita due giovani, il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. Ma vaffanculo! 11 marzo 2010. Happy hour. Dalle 18 in poi, 5 euro. Prendetene, è compreso nel prezzo.